Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi chiudiamo un cerchio, il cerchio delle cinque donne che mi sono più piaciute, che mi piacciono di più nella vita. Una era Nico, fatta Marianne Faithfull. Una era Jan Birkin e abbiamo fatto Gainsbourg. L'altra era Deborah Harry. La quinta, ma non in ordine, anzi forse quella che mi è piaciuta di più nella vita, era ed è Charlotte Rampling. E quindi parliamo di lei. È una ragazza, una donna, una signora che ha debuttato molto giovane, a 19 anni, in un film che si chiamava Non tutti ce l'hanno, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes, ma che raggiunge la vera popolarità nel 74 recitando in un film meraviglioso che io avrò visto almeno una decina di volte, che è Il portiere di notte. E peraltro, anche se non c'entra niente, ci ho anche scritto una canzone con quel titolo per omaggiare questa donna meravigliosa. E oggi lei ha 70 anni e li porta con eleganza, con superbia, e esibisce ancora un sex appeal meraviglioso. È stata immortalata da fotografi come Newton, come Jürgen Teller, insomma è una leggenda, e così la chiamano a Parigi. La sua vita è stata segnata da voli e cadute. Il tono leggermente duro della voce, lo sguardo ambiguo dei suoi occhi grigi, lei lo ha ereditato dal padre, un colonnello dell'esercito inglese. Lei nasce il 5 febbraio del 46 a Starmer, nell'Essex. E il padre Godfrey Rampling è un ex atleta, poi un colonnello dell'esercito, comandante NATO, e la madre Anne Gurtin, che è una pittrice con il pallino della scrittura. Insomma, nasce già segnata. La famiglia materna non è aristocratica, ma è molto conosciuta. Sono dei tessitori che nel corso di due secoli hanno vestito migliaia di persone, dai religiosi ai militari fino alla gente comune. E i primi mesi della sua infanzia lei li vive nella tenuta dei nonni materni, che è un grande maniero vittoriano in mattoni vicino a Cambridge. Lei però viene affidata a una balia perché la madre è troppo preoccupata per la salute della sorella più grande, Sara, che ha 3 anni, e così non riesce a prendersi cura di lei. Durante l'infanzia lei vede poco il padre e un po' di più la madre, che è una donna allegra, elegante e creativa, una donna che ama le fiabe, insomma, lo racconta anche lei nel suo libro, un'autobiografia scritta con Christophe Bataille, uscita da poco in Italia. Sta per iniziare il gran ballo di primavera, ovunque raso e seta profumata. Un fotografo immortala l'istante, la lunga macchina ferma davanti a una scalinata d'altri tempi. Non sono altri tempi, è la giovinezza di mia madre. Come sua sorella, più grande di 3 anni, mia madre ha vissuto i favolosi anni 20. Erano entrambe belle e coccolate dalla famiglia. A Cambridge erano le due debuttanti che tutti sognavano di conquistare. Mia madre amava ridere, ballare, giocare. Era adorabile. Credo che si lasciasse trasportare dalla vita. Era una farfalla di giorno e una principessa di notte. E nella sua autobiografia Charlotte descrive la madre come l'eroina di un romanzo tipo Grande Gatsby, una donna che non ha mai lavorato, che ha vissuto tutti i fasti della sua epoca. Quando il fratello William invita un amico a casa loro, Charlotte ha 12 anni e lui, Godfrey Lionel Rampling, 20. È un colpo di fulmine. Da quel matrimonio nasceranno 2 figlie, prima Sara nel 43, poi Tessa Charlotte nel 46. E poi il padre torna definitivamente dal servizio militare svolto a Malta, torna nel 46 e inizia per la famiglia un periodo di continui traslochi, perché il padre viene trasferito un po' ovunque, 7 volte in 13 anni. Lei si salva dalla solitudine perché ha un'amica speciale che è sempre con lei, è sua sorella Sara. Sara è bellissima, è fragile, soffre di sonnambulismo, i genitori sono da sempre molto attenti alla sua salute. Prima Sara viene mandata a studiare in un collegio lontano, allora Charlotte insiste per raggiungerla. Sara era una vera e propria bambola, viso di porcellana pallida, grandi occhi che interrogavano l'avvenire, capelli biondi che mamma pettinava e lisciava all'infinito. Sara era vestita, coccolata, baciata. Bisognava prendersi cura di lei. Ho un ricordo di bellezza a cui si mischiavano la stanchezza, la malattia e anche queste parole. Charlotte, bada a tua sorella. Prenditi cura di lei. Charlotte vive quasi in simbiosi con questa sorella che ama la musica, è magra, è bellissima. È una persona che non sa ancora però cosa le ha riservato il destino. Un grande dolore e per Charlotte una incredibile carriera. Il falco e il gabbiano. Ma Charlotte Rampling ama la musica, ama cantare e si esibisce con la sorella che, malgrado insomma le sue difficoltà emotive, ha voglia di stare con lei e sono nei pub quando Charlotte ha solo 13 anni. E Charlotte, che è comunque abituata a viaggiare, a un certo punto si trova a Madrid e frequenta l'università, però abbandona presto queste aule accademiche perché vuole cantare. Si unisce a una band canadese e qui canta e suona la chitarra. Siamo nel 63, un agente la vede camminare per le strade di Londra e la nota subito, intuisce il suo fascino magnetico, la chiama per fare una pubblicità e da quel momento la sua vita cambia, perché a quello spot seguono piccole parti in alcuni film. Insomma, quella passeggiata per la City è diventata l'inizio di un lungo colpo d'ala, di una carriera strepitosa, lunga oltre mezzo secolo, una carriera nella quale ha fatto innamorare tanti uomini, compreso il giovanissimo sottoscritto, già giovanissimo nel momento in cui la vidi per la prima volta. Inizia poi a fare l'indossatrice, debutta nel cinema in un film del 65, si chiamava Non tutti ce l'hanno, ha un piccolo ruolo, però il film vince la Palma d'Oro a Cannes e viene notata immediatamente da uno che di donne belle se ne intende, Roman Polanski. Lui ne intuisce le qualità, la vorrebbe nel suo film, lei però ha firmato un contratto per un altro film e deve rinunciare. Però comincia a diventare famosa, soprattutto comincia a diventare un personaggio, la si vede sfrecciare attorno a Chelsea a bordo della sua Mini Cooper, ha un futuro tutto da scrivere ancora, non lo sa che sta per diventare una leggenda, come oggi la definiscono in Francia, ma non sa anche che dovrà subire terribili perdite, terribili dolori. Il primo vero grande dolore è la perdita della sorella, quella sorella con la quale ha sempre vissuto in simbiosi. Perché Sara nel 63, durante un viaggio, conosce un ragazzo che si chiama Carlos, lo sposa dopo una sola settimana, lui è un ricco allevatore argentino e 3 anni dopo avviene una tragedia inaspettata. Tornando a casa, mio padre mi venne incontro in giardino per dirmi in maniera brutale che la sorella con cui avevo vissuto in simbiosi fino a poco tempo prima era morta a Buenos Aires per una emorragia cerebrale. Solo dopo 3 anni ho saputo che Sara si era suicidata dopo aver messo al mondo un bambino prematuro il 13 gennaio del 1967. Si chiama Carlos Junior. Così lei racconta nella sua biografia pubblicata in Italia da 66 and Seconds. È un pomeriggio come tanti altri, però ci sono dei momenti nella vita in cui tutto cambia. È l'epoca della swing in London e si interrompe improvvisamente. Adesso bisogna entrare nell'età adulta. Sara, tra l'altro, è già stata seppellita. Per la famiglia non ci sono né corpo né funerali. La madre entrerà in una profonda crisi da cui non si riprenderà mai più, ne uscirà solo il giorno in cui ha potuto forse rivedere Sara, cioè il giorno della sua morte nel 2001. E Charlotte è la sorella più forte, però non riesce a reagire a un dolore così grande, cade in uno stato di profonda depressione, si isola da tutto, decide assieme al padre di mantenere il segreto del suicidio della sorella. Per fino alla madre non saprà mai la verità. poi bisogna vivere di nuovo, bisogna uscire di casa. E arriviamo agli anni 70, lei si fidanza con Brian Southcombe. Le voci peraltro raccontano di una donna vivace che per un certo periodo vive una specie di ménage à trois con il marito Brian e con un modello che viveva assieme a loro. Quello che è certo è che i due, Charlotte e Brian, si sposano nel 72. 1973, le viene chiesto di posare nuda per Playboy, all'inizio lei non vuole, poi accetta, pone una sola condizione, vuole lavorare col numero uno, il numero uno è Helmut Newton. Quel lavoro segna l'inizio di una collaborazione stretta e proficua. Newton riesce a fare qualcosa che potrebbe essere pensato come impossibile, cioè riuscire a far sembrare la Rampling ancora più dura di quello che è nella vita reale. E una copia di quel Playboy deve essere ancora nella mia cantina da qualche parte. E durante un'intervista lei rivelerà di avere capito che la fotografia ha una forza iconica straordinaria, e quando ha guardato le foto ha pensato: sì, è così che voglio essere vista. E in un celebre scatto di Newton lei è completamente nuda con lo sguardo rivolto all'obiettivo con una mano su un bicchiere di vino, e me lo ricordo quello scatto come se ce l'avessi davanti. È la prima volta che posa senza veli, forse non conosce ancora bene la potenza della sua bellezza. Nel 2012, durante un incontro a Locarno, alla domanda del suo rapporto con la bellezza che può diventare un'arma, lei risponde così. I think it can be dangerous. I think it's probably more dangerous now because of the over exposure. Penso che possa diventare pericoloso. E ora probabilmente è più pericoloso di prima per la continua esposizione. Negli anni 60, quando io sfondai nel mondo del cinema, non c'era nulla di paragonabile a questa esposizione. Tutto era abbastanza signorile, ma ora non c'è il tempo per maturare, per trovare la propria strada, perché c'è troppa attenzione mediatica. Umanamente è davvero difficile. Charlotte diventa madre, avrà un figlio che chiamerà Barnaby, ma lei sceglie solo parti e ruoli che le piacciono, quelli che esigono una certa introspezione, che giocano sulla psicologia dei personaggi. E naturalmente queste sono pellicole europee, non americane. Tra queste lei a un certo punto ne sceglie una che è un capolavoro e si chiama Il portiere di notte di Liliana Cavani. Siamo nel 74. Il film racconta l'incontro tra Lucia, un'ebrea sopravvissuta a un campo di concentramento, e Maximilian, che in quel campo di concentramento era un militare. Lui adesso sotto falso nome lavora come portiere di notte in un albergo a Vienna, e il loro incontro li fa precipitare in una relazione. È un amore contro tutto e contro tutti. The choice of subjects is a very intimate, very passionate thing. La scelta dei soggetti è veramente una questione di passione interiore, riguarda il desiderio. Si può dire che ha a che fare con la complessità psicologica. È rompere ed essere capaci di ricostruire, è qualcosa di ribelle. È il coraggio di mostrare il fallimento umano, la condizione umana, e non adulando o valorizzando tale condizione, ma mostrando coraggiosamente come le persone sono fatte. E poi nel film c'è quella scena incredibile in cui Charlotte balla, diciamo, in topless con addosso solo delle bretelle, un uniforme della SS davanti alla sua guardia. Il film naturalmente viene osteggiato, viene censurato, viene vietato, in Francia viene criticato perché il protagonista è un nazista, in Italia pure, insomma era un film di quelli che avevi quasi paura di andare a vedere. Sentiamo le reazioni della critica raccontate da Liliana Cavani durante un incontro pubblico del 2012. C'è una forma di moralismo, quindi il protagonista deve essere una persona pulita, insomma, non deve essere il cattivo, deve essere il buono, cioè il film western è così, insomma, nelle favole, nelle storie, così. E quindi era almeno, perlomeno era una tematica questa, così. Da noi invece il problema è partito già la censura. Allora, quando mi hanno chiamato dentro, il film era andato in censura, e mi hanno detto, ma qui un problema, tant'è che l'hanno fatto vietato il 18. Il problema qual è? E dice, perché lei sta sempre sopra, fa l'amore da sopra. Allora pensi noi come siamo, cioè, questo è stato vietato il 18 perché Charlotte è sopra e non sotto. Questa è la questione. La scena del suo, del ballo di Charlotte, è una scena che verrà poi, cioè, diventerà parte della storia del cinema. Madonna la citerà nel video in bianco e nero, quello Justify My Love, girato nel 90, e anche quello fu uno dei video musicali più controversi dell'epoca. Venne censurato, venne mandato in onda solo di notte, ma insomma la scena di Charlotte Rampling con le bretelle rimane quasi nel centro della storia del cinema. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Charlotte Rampling, chiamata in Francia la leggenda, una delle donne più belle, magnetiche e interessanti della storia, secondo me, del Novecento. Lei raggiunge la vera popolarità nel 74 con il capolavoro di Liliana Cavani, Il portiere di notte. Oggi lei ha 70 anni e ha un sex appeal veramente ancora intatto, è algida, è meravigliosa, è bella, ha avuto tanti amori, l'abbiamo lasciata sposata al suo primo marito Brian Southcombe. Intanto dopo Il portiere di notte è difficile ripetersi, certo il salto da lì alla parte con Yuppidù con Adriano Celentano è stato veramente un triplo carpiato che non ha lasciato entusiasti i suoi fan, però la vediamo per esempio nel 75 camminare bellissima e spedita su una passerella di Venezia e poi a Marghera, comunque nel presentare questo film particolare diretto, prodotto, musicato, interpretato dal molleggiato Adriano Celentano. Ti faccio vedere una cosa. Una cosa? Adesso vedrai. Guarda. Vedi? Silvia è felice. Ti ricordi? E come eravamo felici. Ti ricordi? Ma anche poveri. Sì, ma felici. Ti ricordi quando la suora mi ha detto, è una femmina, è bellissima, ti ricordi la mia faccia? No, io ero svenuta in sala operatoria, non ti ricordi? E poi la carriera procede, però la vita familiare si arresta, Charlotte e Brian divorziano nel 76, ma poco dopo è la volta di un nuovo amore, il grande musicista compositore francese Jean-Michel Jarre, che lei incontra a Cannes e sposa nel 78 e con lui ha un secondo figlio, David Jarre. Poi lei rallenta la sua carriera, si dedica alla famiglia. Durante un'intervista televisiva dell'83 risponde così al giornalista che le chiede il suo rapporto con i musicisti e con la musica. When acting at its finest is a fine art. Quando la recitazione è eccellente, è un'arte raffinata come lo è la musica per un grande compositore. Quello che amo della musica è il fatto che mi tocca assai profondamente ed è molto emozionale. Very deeply, very emotionally. E nel 94 lei si presenta in un programma televisivo francese, canta Le Mot Bleu dedicando la canzone al suo compagno Jean-Michel Jarre che la guarda dal pubblico. Tutto sembra andare per il meglio, poi Jean-Michel Jarre commette un errore perché si fa beccare con una donna più giovane, la storia va sui giornali e la Rampling non tollera e il matrimonio va in frantumi. Nel 97 i due si separano. Negli anni 90 Charlotte si dedica soprattutto alla televisione, torna sul grande schermo con due pellicole, Sotto la sabbia del 2000, Swimming Pool del 2003, varie nomination a diversi premi. Sotto la sabbia, che è un film drammatico, Charlotte interpreta Marie, una donna sposata da 25 anni che durante un'estate improvvisamente scopre che il marito è sparito senza lasciare la minima traccia. Suo marito aveva qualche motivo professionale o sentimentale per scomparire? No. Ha notato in lui un certo stato depressivo? Le ha mai parlato di stanchezza, di voglia di farla finita? No. Il regista, che si chiama François Ozon, si concentra sull'espressione, il corpo della Rampling riesce a fare emergere ancora del fascino, perché bisogna trattare il delicato tema della sensualità a una certa età. Di Ozon e dei registi Charlotte parla come di persone che devono entrare in relazione con la tua anima, col tuo corpo, che può anche essere nudo e esposto se questo serve a dare un senso al personaggio, perché il linguaggio del corpo è importante a tutte le età. È molto importante in questo mondo. Tu attualmente stai parlando con il tuo corpo, quindi usi il tuo corpo come uno strumento musicale. Lo puoi far vibrare in ogni punto. E se lo usi bene, se capisci com'è il tuo corpo, com'è la tua voce usandola come uno strumento, allora hai una completezza del tuo modo di essere. Questo funziona e io adoro davvero questa sensazione. Un altro tema delicato che lei affronta è quello attuale, come sempre, del sesso a pagamento. Lo affronta con Eden South nel 2006, però capovolge la situazione perché affronta il tema vissuto da parte delle donne. Il film, diretto da Laurent Cantin, è un film nel quale Charlotte veste i panni di una signora che fa del turismo sessuale ad Haiti. Ne parla alla BBC. What interested me about the subject was this incredible paradox. Quel che mi ha interessata del soggetto era questo incredibile paradosso. Cioè, come queste donne decorose, di bell'aspetto assieme, possano trovarsi in una tale miseria sentimentale e non trovino niente che le soddisfi. Mandano agli uomini regali e si fanno la guerra. Perché delle donne di mezza età fanno questo? E credimi, ce ne sono tante. Queste non sono storie, non è fiction. Questa è realtà. This is not a story, this is not fiction, this is about reality. E in questo periodo Charlotte rivive l'amore vero, questa volta con un uomo che decide di non sposare, ha 10 anni in meno di lei, è francese, è molto più ricco di lei, è un magnate delle telecomunicazioni, si chiama Jean-Noël Tassé, e mostra la sua genialità dicendo una frase storica che vi prego di segnare: ci si sposa per i figli e io preferisco essere amante che moglie. Scrivetevela. Questo è quello che risponde a un giornalista che le chiedeva qualcosa di più sul suo fidanzato. E poi nel 2012 viene diretta dal figlio Barnaby Southcombe in I, Anna. È un noir che racconta la storia di una donna separata dal marito che inizia a frequentare una serie di feste per single, incontra un uomo con cui passa la notte e la mattina dopo viene fermata dalla polizia che sta investigando su un delitto avvenuto nel palazzo da cui lei se ne stava andando. Ecco, per la prima volta madre e figlio lavorano assieme sul set e deve essere un'esperienza molto bella, forte. Ecco come la commenta lui, il figlio. Oddly, it was kind of easier than we both. Curiosamente, è stato più facile di quello che entrambi ci aspettavamo. Pensavamo che si sarebbe creata una situazione imbarazzante, almeno sicuramente per me era così. Invece è andata bene e ho provato una sorta di piacere a comandarla almeno per una volta. It was kind of nice to boss her around for once. Insomma, lei sceglie sempre ruoli precisi e delicati, non si butta via. Nel 2013 interpreta il ruolo di una neuropsichiatra nell'ottava stagione della serie americana Dexter. Poi nel 2015 c'è un brutto colpo per lei. Il suo compagno muore a 59 anni dopo una malattia. E lo stesso anno lei vince l'Orso d'Argento come miglior attrice al Festival di Berlino con 45 anni di Andrew Haig, un film che tratta di una crisi coniugale dopo 45 anni di matrimonio. Una cosa è sapere di non essere stata abbastanza per te, un'altra è avere la sensazione che tutti gli altri lo sappiano. Credi davvero di non essere stata abbastanza per me? No, io so di esserlo sempre stata, ma non so se lo sei tu. Oh, Kate, è terribile. Hai preso le tue pillole oggi? No. Allora vado a prenderle. E poi preparo la cena. E poi andiamo a dormire. E domattina ci alziamo e proviamo a ricominciare. D'accordo, Kate, ce la farò. Ce la faremo. È un altro film di qualità, perché lei fa solo film di qualità in questo momento, film di produzione inglese, una storia intimista di questa coppia matura, sconvolta da un segreto che viene dal passato, un grande successo soprattutto di critica, lei vince diversi premi, viene candidata all'Oscar 2016 come miglior attrice protagonista. E questi sono anche gli anni in cui lei decide di pubblicare un libro che parli di lei e della sua famiglia, Io, Charlotte Rampling, ed è il risultato di molti incontri sporadici, di passeggiate, di chiacchierate con l'editor Christophe Bataille. Ci sono dei ricordi, frasi che ci riportano nell'infanzia, nella prima giovinezza dell'attrice, che riscopre per caso documenti, foto, diari della madre, di quella donna fragile che non si alzerà più e che infatti un giorno non si alza più dopo la perdita di una figlia. Eh sì, perché quando la madre di Charlotte era entrata in quella crisi, il padre aveva raccolto le foto, gli scritti, i diari, li aveva messi in un baule, aveva consegnato tutto al macero, ma come ha raccontato la stessa Rampling, c'è un dio dei ladri, a distanza di anni quel tesoro era tornato nelle sue mani, perché si era presentato alla sua porta un ometto che l'aveva rivenduto tutto il baule. A me è successo invece di trovare su eBay una serie di quaderni miei di ragazzini che mi avevano rubato in casa una ventina d'anni prima, quindi sono cose che capitano. Comunque, il passato di Charlotte lei lo ritrova e questo l'aiuta a ricominciare. C'è per esempio un incontro chiave a Buenos Aires tra il figlio David e il figlio della sorella Carlos Junior, quello che lei non aveva ancora avuto il coraggio di incontrare. Oggi lei vive a Parigi da più di 30 anni, ha una casa anche a Londra, in Francia la chiamano la Legend, quando si degna di uscire di casa frequenta pezzi grossi, compresi coniugi Sarkozy, è ancora un mito vivente, è distaccata, è irraggiungibile e a 70 anni è ancora sensuale. Ci sono storie di persone che hanno saputo volare in alto, nel caso di Charlotte Rampling molto in alto, grazie alla sua classe, alla sua bellezza, quella qualità che alcune donne hanno, qualità che non riesci neanche bene a definire, ma che nel caso di Charlotte si chiama tranquillamente aura e carisma. Se avete delle storie da segnalarci, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, andate sul podcast se vi siete persi qualche storia o ne volete risentire qualcuna e venite a visitare i miei social, i nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. I knew she was a thief.